piccola, veloce e ovviamente scoperta, l'ideale per godersi la bella stagione con i capelli al vento, ma ottima anche per un uso quotidiano. Sportiva, grintosa e accattivante, la BMW 125i ha un prezzo abbastanza impegnativo, ma per contro garantisce molte soddisfazioni. Nome: BMW 125i Cabrio Futura. Carrozzeria 2 porte 4 posti. Dimensioni: lunghezza 4,36 metri, larghezza 1,74, altezza 1,41. Motore è un benzina 6 cilindri in linea da quasi 3000 centimetri cubi. La potenza è di 218 cavalli, la trasmissione trazione posteriore, cambio automatico a 6 rapporti e chiudiamo, come sempre con il prezzo, 40.751 euro.